Dunque ci spostiamo all'Aquila perché proprio sul fine dell'anno si rinnova una tradizione ormai importante della città musicale e del jazz, cioè i giorni dedicati alle voci della musica nordamericana all'auditorium del parco. E ho tutto organizzato dalla Baratelli Concerti, società aquilana dei concerti medesimi, e abbiamo al telefono proprio il responsabile Fabrizio Pezzopane che ci racconta di questa tornata. Nel primo anno io ricordo che abbiamo visto Danilo Rea e John Scofield sulle musiche dei Beatles, poi pausa per il Covid, quindi siamo tornati comicisti come Bill Frisell, Bill per esempio. Frisell. Quest'anno tutto al femminile. Perché questa scelta? Ma è una scelta in realtà in parte è stata casuale e poi dalla casualità si è passati poi a una scelta ben definita, perché ormai da alcuni anni abbiamo questa collaborazione con la Fondazione Umbria Jazz che organizza appunto il segmento invernale di Jazz in Winter a Orvieto. E quindi vedendo un po' tutte le ipotesi di collaborazione, vedendo quindi tutto gli artisti e le artiste, abbiamo detto ma perché quest'anno non declinare tutto al femminile, visto che insomma ci sembrava anche un gesto di cortesia, ma non del tutto naturale. E quindi abbiamo pensato di ospitare queste tre donne con le loro diversità in queste tre serate, 28, 29 e 30 dicembre. Tra diversità, dunque, una pianista, la Chris La Davis, Chris legata Davis, una all'avanguardia, la pianista Diane Reeves, che è canadese, legata al tropical, e quindi la esatto. Trammell, che invece è mitteleuropea. Mitteleuropea, anzi, sì, Olivia Trammell, che poi lei è tedesca, quindi forse Trummer, non so, comunque Trummer. diciamo Trummer o Trammell, sì, e fra l'altro lei è anche una pianista che viene proprio dal classico, c'è anche questa straordinaria esecuzione della Fantasia Corale di Beethoven, suonata da lei a Monaco, con questa lunga cadenza introduttiva di questa improvvisazione vocale, che è qualcosa di veramente interessante, quindi è un artista molto, molto, assolutamente da seguire. Quindi un po' questa è la nostra linea di questa rassegna di quest'anno. Invece con Daniel Reeves si va nella musica anche brasiliana. Beh, sì, certo, poi c'è questo omaggio a Bart Bacharach, quindi specifico per questo programma, quindi vabbè, lei è una delle vocalist di riferimento adesso, fra l'altro lei è più o meno della stessa contemporanea della Bridgewater, di Cassandra Wilson, vabbè, poi c'è la Diana Krall che è un po' più giovane, ovviamente, però sono queste voci che oggi vanno per la maggiore, ecco. Ecco, iniziamo allora con invece un pianismo di altissimo livello, riconosciuto in qualche modo portavoce in un certo modo anche della ricerca espressiva Sì, dell'avanguardia, la Chris Davis. certo, infatti lei farà anche dei brani per pianoforte preparato, insomma, pianoforte che avrà che verrà in qualche modo occupato da ecco, queste preparazioni che si fanno di strumenti che ricordano un po' anche l'avanguardia classica degli anni 60-70, ecco questo, quindi riprende anche queste forme che in qualche modo ci riportano a quel tipo di quel linguaggio musicale dell'epoca, ecco. L'Aquila è diventata un riferimento in Centro Italia per il jazz, perché io mi ricordo ero presente quella magnifica iniziativa del dopo terremoto organizzata da Fresu, con tutti i Sì. musicisti italiani in giro per la città, che poi si presenta ogni anno, e poi Sì. queste iniziative invernali. Sì. Quant'è importante il jazz per l'Aquila? Ma guardi, appunto dopo il sisma c'è stato questo grande movimento che poi si è anche istituzionalizzato con il jazz italiano per le terre del sisma, ma in realtà l'Aquila ha una tradizione, seppur un pochino più ridotta nelle dimensioni, ma già da sempre. Non personalmente, ma già credo nel 60, nel 61, all'Aquila venne il Modern Jazz Quartet, quindi insomma, parliamo di oltre 60 anni fa. E poi comunque abbiamo sempre ospitato nelle nostre stagioni, non nelle rassegne specifiche, ma nelle nostre stagioni ordinarie, quindi da ottobre a maggio, abbiamo ospitato moltissimi concerti espressamente dedicati al jazz. Nomi importanti, complessi, e quindi è sempre stato un target che noi abbiamo individuato nelle nostre stagioni. Poi in questi ultimi anni c'è stata, come dire, questa esplosione in qualche modo sostenuta proprio da quel tragico evento che però ha portato un po' i riflettori sulla città, e quindi moltissimi artisti hanno destinato la loro attività per accompagnarci nella ricostruzione, e di questo noi siamo ovviamente grati e lo saremo, penso, anche nel futuro. Diceva noi, quindi parliamo della Barattelli Concerti, noi Barattelli, che ha tante attività. Sì, beh, noi abbiamo un'attività a 360 gradi, quindi in realtà parte la stagione ordinaria, che è la stagione diciamo accademica, però noi facciamo tutta un'altra serie di attività dedicate anche alla musica antica, alla musica sul repertorio organistico, perché qui all'Aquila abbiamo molti strumenti del 600-700 che sono stati restaurati, e quindi anche lì ospitiamo grandi artisti e grandi solisti, così come anche l'attività nel territorio diciamo l'Interland aquilano è veramente straordinario, meriterebbe forse più attenzione da parte anche dei flussi turistici, ma vediamo che insomma, stiamo crescendo anche in questo. Ecco, e in quindi, ultimo, per chi volesse fare una vacanza non solo intelligente ma anche molto divertente, i tre appuntamenti dove, come e quando? Allora, i tre appuntamenti avranno luogo all'Auditorium del Parco, che è appunto l'auditorium questo realizzato nel 2012 dalla Provincia Autonoma di Trento su un progetto di Renzo Piano, che è diventato oggi un po' il punto centrale dell'attività prevalentemente musicale della città, in attesa ancora di riappropriarci del teatro comunale, e quindi mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30, tutti alle ore 18, inizia alle ore 18, e quindi si possono fare anche prenotazioni tramite il circuito Ciao Tickets oppure direttamente qui nei nostri uffici. Quindi questo è un po', sono un po' le, per ulteriori informazioni il nostro sito barattelli.it per chi volesse approfondire un po' di più, oppure rivolgersi direttamente a noi, saremo ben lieti di accogliere chi volesse, ecco. Benissimo, la ringrazio tanto e ci vediamo all'Aquila. Grazie tante, e intanto auguri di buone feste a tutti gli ascoltatori. Grazie e buona giornata. Buona giornata. Buongiorno.